Animati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Perché ho le mie ragioni, ma voi siete molto intelligenti e avete già capito tutto. Eccezionale. When I look at you, my mind goes on a trip. Then you came in and knocked me on my face. Fischia l'arbitro. E Totti. Il testo di Totti in rete. Totti! La Roma in vantaggio. I never thought I'd offer you as hard as I did. You got me thinking about our life. Pallone per Jeremenko, c'è spazio a sinistra, la mette giù Milanov, parte il traversone, non ci arriva Zagojev, la palla finisce in rete. Parte il traversone, Zanocceri Ozzago, Ieve, la palla finisce in rete. Qui c'è il destro, ci ripropongono due volte il destro, una volta il gancio sinistro di Mike Tyson. È come se avessi preso un cazzotto da Tyson oggi, perché purtroppo non me l'aspettavo, poi era, per me era perfetto, un gol mio, 1-0, che eri quasi qualificato. E poi purtroppo è successo quello che è successo. Tyson incrocia col sinistro, poi il destro e ancora il sinistro. È come se avessi preso un cazzotto da Tyson oggi. Cazzotti di Tyson a parte, Franco Piantarini, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, dei miei buoni amici in redazione, ma oggi per me è una specie di Natale perché c'è Leo Turrini che è venuto a trovarmi. Ciao Leo. Ciao, io non sapevo che andassimo in onda dalla Pero Cormano, io credevo che ci fosse una sontuosa sede di Radio 24. Volete già le anticipazioni sul traffico? La stiamo allestendo la sede sul traffico. No, voglio dire che ci si sta seguendo ed è sulla Pero Cormano, ci sono questi rallentamenti. Fatevene una ragione, perché come vi ho già anticipato 48 ore fa, la panda di Marco Mattiacci è rimasta lì senza metano, abbandonata per volontà del perfido Marchionne, e quindi insomma bisogna fare un po' di coda. E poi parliamo anche di questa intervista che hai pubblicato oggi a Marco Mattiacci, eh? Sì, è l'unica che lui ha ritenuto di rilasciare, naturalmente per comprensibili ragioni. Non spiega i motivi di una rottura tanto brusca e tanto drastica, però io vorrei dire una cosa che riguarda il Jobs Act, perché io seguo sempre molto Barisoni, Focus Economia, no? Allora, se avete capito bene, amici di Radio 24, col Jobs Act diventerà, si dice, più facile licenziare, no? Sì. Ma siete sicuri che sia la strada giusta? Perché in Ferrari li stanno licenziando tutti, ma non si può certo dire che l'applicazione del Jobs Act a Maranello si sia tradotta in risultati. Quindi è il caso di riflettere qui a Focus Economia, cari amici, con Barisoni al posto di Genta. E con Pardo, al telefono con noi. Ciao Pierluigi. Come state? Come va? Molto bene. Sì. Ciao carissimo. Sei sulla Pero Cormano, no? Come va? Mi viene da parlare così? Fai benissimo, tu sei un imitatore straordinario. Tra l'altro volevo dire una cosa che non ho avuto ancora modo. Io considero Pardo lo Stephen King del giornalismo italiano. No, fammi dire, perché il calcio in Italia è una cosa da orrore, no? Mm. E tu, Pardo, riesci a renderlo affascinante. Quindi vabbè, sei il nostro Stephen King. Hai capito? Allora, sono commosso, no, a parte tutto, grazie, mi sembra veramente che stiamo perdendo proprio la barra, non nel senso di Francesca, proprio l'equilibrio. Comunque grazie. Senti, parlami della sfiga. Sì. La sfiga è una... Che guarda negli occhi la Roma, che all'85esimo nel combinato disposto delle due partite aveva passato il turno, in questo terribile girone. È chiaro, si giocava a orari diversi, no? Una alle 18 era già finita, l'altra era ancora a cominciare, però avessero giocato in contemporanea all'85esimo, la Roma in carrozza agli ottavi di finale, vinceva 1-0 a Mosca, il City perdeva maldestramente 2-1 in casa con il Bayern di Monaco, ridotto in 10, e poi invece, peccato, le partite durano 90 più recupero. Sì, la consolazione poca consolazione può essere per i tifosi della Roma ricordarsi il giorno del sorteggio. Il giorno del sorteggio, se avessero detto che la Roma aveva la possibilità di passare a 90 minuti dalla fine, giocando in casa l'ultima partita, addirittura molto probabilmente potrebbe bastare uno 0-0, al di là del fatto che lo 0-0 non è mai un risultato che uno può cercare, beh, penso che in tanti avrebbero firmato. Certo, per come si è messa, per come si è messa ieri, è veramente incredibile. È incredibile che la Roma non sia riuscita a vincere la sua partita, con le palle gol che ha avuto per chiuderla, per andare 2-0, che ha preso questo gol assurdo a 15 secondi dalla fine. Ed è incredibile che il City sia riuscito a ribaltare una partita che nel secondo tempo la vedeva veramente sotto, con una dimostrazione di forza del Bayern clamorosa, per certi versi non così lontana dal 7-1, lontana perché dal 7-1 è una roba incancellabile e pesantissima, però vedere anche nel secondo tempo il Bayern 10-11 dominare concettualmente il City, beh, insomma, poi però è successo di tutto e quindi va bene anche così. Io che devo dire, è chiaro che deve fare oggi Garcia, si deve mettere a lavorare tranquillamente, pensando a quel piccolo bicchiere mezzo pieno, a quella parte piena del bicchiere, e pensando che la Roma ha ancora il destino nelle sue mani, e che ieri comunque ha dimostrato, al di là di tutto, di essere una squadra di salute, perché ha dimostrato che col CSKA, della sfida al CSKA è più forte lei. Sì. Esattamente. Lo si è visto anche ieri. Insomma, il CSKA ha dimostrato nelle due partite col City invece di metterla molto in difficoltà, e quindi la Roma deve sperare che la proprietà transitiva funzioni. Allora, ci fermiamo. Indovina per cosa? Le autorità. Non c'è il traffico. Ma lancialo tu. Sì, no, volevo ricordare sempre chi sta viaggiando sulla Pero Cormano. Kimi Raikkonen è tornato da Abu Dhabi e ha qualche difficoltà a inserire le marce della multipla, quindi se vedete dei rallentamenti, questo è il motivo. Avete capito bene, Raikkonen in transito sulla Pero Cormano. Grazie. Adesso prima di lasciarci voglio che faccia l'imitazione di Fabio Cappello. Ah, non parlo con voi altri. Babum, le linee, gai. Va bene, salutiamo Mizzo, l'ho sentito 20 minuti fa, credo sia Pantelleria, credo. Tu ti hai detto? Ci saluta, ma non posso uscire. Grande, va bene, ciao Filippo, ciao. Chiedo scusa, ci sono dei momenti che mi scordo di essere in diretta nazionale. Ti scordi di essere Luigi Pardo? Le voglio bene, ecco, nei limiti ovviamente del rapporto professionale. Bene. Pareggio fuori casa, non è mai male, ma come è successo questo pareggio, sì ci dà tanto rimpianto. Sono solo deluso per il modo dove hanno pareggiato, se no eravamo vicinissimo, forse alla qualificazione già, ma non è niente perso. 800 24 00 24 per intervenire, per parlare con Leo Turrini, che è qui con caro me, caro maestro, con Pierluigi Pardo, che è collegato con noi. Dario dal Camion, insomma, ha letto tutti i tuoi libri, anche quelli che non hai ancora scritto, Leo. Beh, devo dire che allora è un carissimo amico, però è sulla Pero Cormano? No, non risulta sia sulla Pero Cormano. In compenso c'è chi è sulla Brescia Bergamo e dice che Raikkonen sta passando di lì. No, io non vorrei che sulla Brescia Bergamo ci fosse già Vettel che si sta abituando ai ritardi, dei quali dovrà sicuramente, diciamo, imbattersi al volante della Ferrari. Hai visto che ieri è andato a salutare i suoi nuovi meccanici, i suoi nuovi ingegneri, sì, lì al box di Abu Dhabi. E oggi Gianni Gnocchi ha scritto: prima visita ufficiale Gazzetta, prima visita ufficiale di Vettel in Ferrari, dopo un paio d'ore è riuscito a farla partire. Sì, io penso che la cosa positiva sia che Seb comunque è consapevole della difficoltà dell'impresa, l'ha anche detto esplicitamente in occasione dell'ultimo weekend del Gran Premio, insomma sa che non sarà una passeggiata, anzi è una traversata nel deserto. Adesso la Ferrari ha un nuovo Mosè nella persona di questo Maurizio Arrivabene, in inglese Arrive Well. Arrive Well si sta muovendo, devo dire, con molta energia. Ieri ha portato Marchionne addirittura alla riunione tecnica della Formula 1 a Ginevra. E questo, devo dire, in sé è un fatto molto significativo, perché Marchionne, da quando era presidente di Ferrari, comunque non si era mai occupato di questi aspetti, sai, i bulloni, gli ibridi, ste cose, si occupava solo di borsa, Wall Street, eccetera. Allora speriamo che l'uomo col maglione si renda conto che in Ferrari è indispensabile, ripeto, indispensabile, investire in modo massiccio in tecnologie e in risorse umane se si vuole colmare questo gap purtroppo enorme nei confronti di Mercedes. E credo che dovrà investire qualcosa anche la Roma, Pierluigi Pardo, che ha bisogno di benzina o di ossigeno. Sì, però a me ieri la Roma è piaciuta, insomma, io adesso bisogna anche distinguere il risultato, che ovviamente ha sempre un'importanza, un'incidenza. Per esempio quel gol ci dice delle cose, ci dice che sicuramente non c'è stata grande reattività da parte di De Santis, che la difesa ha dormito, che forse si sentivano già dentro gli spogliatoi, che negli ultimi minuti la Roma aveva abbassato il baricentro, e questi sono tutti peccati gravi. Però insomma, io onestamente, detto questo, che sono tutte cose sulle quali Garcia dovrà lavorare, noi ieri eravamo pronti a raccontare una partita, a vivere, a vedere una partita che era complessa, no, da decifrare, e mi sembra che la Roma l'abbia interpretata molto bene. E quindi insomma, secondo me, adesso parliamo di prestazione e non parliamo più di scenari, il giudizio sulla partita di ieri rimane positivo, e penso che Garcia debba motivare i suoi giocatori partendo proprio da lì. Sì. Florenzi è stato molto maturo nel dire subito: non ce lo meritavamo di vincere perché ci siamo abbassati troppo, cioè nell'andare subito a cercare il pelo dell'uovo di quello che non aveva funzionato. Il dato politico complessivo è che la Roma ieri aveva una trasferta impegnativa e ha giocato una buona gara. Poi certo, il perdetto è amaro, lo diciamo per chi non lo sapesse, chi non fosse entrato nel merito dei calcoli. Anche con il pareggio, se il City avesse perso, cosa che era praticamente molto probabile fino a 5 minuti dalla fine, la Roma al 99% poteva addirittura perdere i due gol in casa l'ultima gara e qualificarsi. Adesso invece dovrà vincere, in caso di doppio adesso pareggio passerà la Roma, quindi pareggio del oppure probabilmente lo 0-0. Dipende molto dal CSKA. Se il CSKA perde a Monaco di Baviera, la Roma passa con il pareggio, ma solo con lo 0-0. Vincendo o facendo 0-0, dall'1-1 in poi passa il City. Se il CSKA perde, con la stessa ipotesi, insomma, se il City ieri sera avesse perso come sembrava probabile e come era praticamente fino a 5 dalla fine, con il CSKA che perde l'ultima partita a Monaco, la Roma poteva perdere 2-0 o 3-1, 4-2 o 5-3, quindi con due gol di scarto, e passare il turno. Sì. Sarebbe stata, dal punto di vista, se vuoi, della goduria del tifoso, forse, no, passare con 5 punti perdendo in casa all'ultima, sarebbe stata, dal punto di vista della goduria dei tifosi, sarebbe ovviamente il massimo possibile. Invece adesso dovrà fare prestazione, dovrà fare una grande partita, però insomma la può fare. Io onestamente, il City si è risvegliato alla fine grazie a un giocatore eccezionale che è il Kun, ma poi c'è tutta la malizia anche dei nostri ascoltatori, Leo Turrini, c'è chi scrive: biscottino alla bavarese Paolo da Prato. Sinceramente io non credo. Io adesso tutti i discorsi che ha fatto Pardo non ho capito nulla sui calcoli, sono anziano. Tutti i calcoli che hai fatto mi hanno un po' sbalestrato, come davanti a una pensione, diciamo così, non precisa l'ultimo centesimo. Però volevo chiederti se il nuovo articolo 18 è già stato applicato a Maicon alla Roma, perché non ne ho più notizie. Tu sai qualche cosa? Dovrebbe tornare domenica contro l'Inter, tra l'altro in una partita per lui speciale. Lì bisogna anche capire, perché lì c'è anche l'ipotesi della giusta causa in caso di licenziamento. Scherzo, però io insomma, Maicon, il giocatore l'anno scorso, ha fatto benissimo, però il caso è quasi disciplinare, quello dell'ultima partita, perché sappiamo che i medici l'avevano dichiarato disponibile, lui ha preferito non partire. Sappiamo anche, come ci raccontava ieri Paolo Sogna, che Maicon dall'anno scorso, non essendo più un ragazzino, ha chiesto e ottenuto di avere un regime particolare dal punto di vista della preparazione, legato alle sue condizioni fisiche, quindi potersi allenare con dei ritmi diversi dagli altri. Lo scorso anno questa cosa ha funzionato benissimo, quest'anno chiaramente è passato un anno in più, il mondiale se n'è andato, è cambiato il preparatore, e c'è qualche problema in più nella gestione di Maicon. Però insomma è un giocatore imprescindibile in questo momento per la Roma, perché tutti gli altri esterni, da Toro a Cole, a Ole Bass, sono adattati al giovane Somma. Sì, sono giocatori. Lorenzi ieri ha fatto molto bene, molto bene, molto bene. Si conferma un giocatore. Lorenzo Nainggolan, terzino destro, io non troppo attiva per Rudy Garcia, abbiamo parlato anche ieri, per pensare di potersi giocare a terzino destro. Lorenzi è uno che può fare quel ruolo perché ha il dinamismo. Nainggolan mai nella vita. Nainggolan deve stare in mezzo a fare a fare qualità e quantità, e la sostituzione di Nainggolan immagino Lorenzi, che a Roma come, ecco. come dicono in America, all around, uomo buono per tutte le stagioni, per però ogni ruolo. Dovete stare attenti quando parlate di imprescindibili, perché in Ferrari Montezemolo era imprescindibile, Domenicali era imprescindibile, Alonso era imprescindibile, Mattiacci era imprescindibile, alla fine sono rimasto solo io, quindi cercate di usare con cautela questa categoria degli imprescindibili. Tanto dove... mi spieghi in poche parole che cosa ci ha avuto in più la Mercedes? Parecchie cose, ah, in poche parole. Beh, guarda, ha avuto 40 cavalli in più, diciamo, sul motore, la power unit, e parecchie centinaia di milioni di euro in più investiti in sede di ricerca e sviluppo negli ultimi 5 anni. Perché in Formula 1, forse così anche nel calcio, ma questo me lo insegnerai tu, se non hai la capacità appunto di spendere bene i quattrini non vai da nessuna parte, oppure vai troppo piano come nel caso, a Ferrari ferma sulla Pero Cormano, ma volevo dire ci sono ritardi anche in zona Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo, perché lì è stata individuata la vettura, quella diciamo così ufficiale, che Marchionne ha lasciato per un anno all'avvocato Montezemolo. Non so se avevate letto il comunicato del congedo a settembre, si era premurati di far sapere che in nome dei meriti storici per ancora 15 mesi l'avvocato Montezemolo avrebbe goduto dell'auto di servizio, solo che si trattava non di una Ferrari ma di una multipla a metano. La multipla ha il suo fascino. Caro Pardo, ha il suo fascino. Beh, la multipla nella storia ha tirato anche degli striscioni, no? Tipo chi è che aveva scritto qualcuno siete brutti come la multipla, cioè, sì. Però in realtà è una macchina, adesso non voglio fare non bella esteticamente, ma insomma comoda, ecco, almeno questo sì. Ma quindi c'è il parallelismo con il calcio, cioè anche nella Formula 1. Beh, tu devi fare attraverso tu devi sport, fare caro Pardo questa riflessione. La Mercedes ha comprato il team da Ross Brawn a fine 2009. Ha cominciato a vincere 5 anni dopo, in questi anni, per dire, sulle nuove tecnologie del motore ibrido ha collocato 400 ingegneri. In Ferrari certamente sono molto più bravi, ma sono sì e no una quarantina. E questo è solo, 40, è solo per fare un esempio, hai capito? 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2. E allora io so che magari per il popolo è difficile da comprendere, perché dico, ma come la Ferrari con la tradizione, la storia, il prestigio debbano stare sempre davanti, no? Come mai per anni hanno perso dai bibitari della Red Bull eccetera, poi adesso sono arrivati questi tedeschi tremendi, la Merkel, Deutschland, Uber, Alles, insomma non se ne può veramente. Senti, più ma sono l'unico, usciamo dall'euro, non... voglio dirti questo, ma questo è il programma di Barisoni. Pardo, Pardo, hai sbagliato programma, non c'è gente qui, c'è Barisoni, sei a Focus Economia, Pardo. Ti voglio informare, ragazzi. Tra l'altro, fra un attimo c'è il mercato, giusto? Esatto, la borsa, ma subito dopo torniamo. Torna tutto. 800 24 00 24, il vostro numero verde, torniamo subito. Ma io non penso nulla, abbiamo preso un gol difficile, sicuramente che non è colpa di Morgan, non è colpa di nessuno, era un gol, un'azione di loro, noi non pensiamo mai a dare la colpa di un altro. È colpa di tutti noi che siamo stati in campo e tutti quelli che sono stati in banchina. Tutti convocati. No, adesso si devi far vedere come parte. Forza, forza, forza, forza! Allora, 2011 Di Maro con il ritiro del Napoli, De Santis, non succederà più, oppure no, forse succederà ancora. Io non lo faccio mai, però se qualcuno veramente vuole puntare il dito contro il sottoscritto in questa situazione qua, sbaglia perché lo fa in maniera disonesta oppure non capisce di calcio. La situazione è evidente, due persone a 3 metri, troppo bassi, troppo in difesa, una situazione che non doveva crearsi, peccato, perché poi la squadra avrebbe meritato di vincere. È vero che il Sesca non ha mai mollato, ha gestito un pochettino forse di più il pallone, adesso bisognerebbe avere i dati, però le occasioni più importanti ce le abbiamo avute noi, non concretizzarle è stato un peccato importante, il peccato mortale è stato non gestire bene la palla a 10 secondi alla fine. Pallone per Jeremenko, c'è spazio a sinistra, la mette giù Milanov, parte il traversone, Zanon, ci arriva Zagojev, la palla finisce in rete. Per me quella situazione lì non doveva esistere, perché al 92esimo e 50 secondi abbiamo la palla noi e non può esistere. Poi quello che succede dopo è che ci abbassiamo troppo, io adesso guarda, non lo faccio mai, però se mi dovete tirare in mezzo su questa cosa qua mi arrabbio parecchio, perché non c'entra reattività, non c'entra niente, ho tre persone davanti, non posso far altro che prendere gol e star zitto, anzi mi sarebbe venuta voglia di protestare per il fuorigioco, ma era troppo grande l'amarezza. Dai, non ne parlo più perché sennò sembra, io poi non sono abituato a far così, sono abituato a parlare della prestazione della squadra. E questo è Morgan De Santis, caro Leo Turrini. Questo ce lo commenterà Pardo, sì, meno male che Pardo, non è arrivato, è un grande portiere, no, non è arrivato ai livelli di Mazzarri dicendo che poi è venuto a piovere De Santis. No, però in mi aspettavo c'era anche quella. No, mi compenso, c'era il campo ghiacciato, quindi la palla ha avuto un rimbalzo strano. Ah, tu dici che è stato dovuto comunque a un effetto meteo. Ma è sicuro, no? Pierluigi. Ma insomma, io Ha ragione De Santis quando dice che non doveva succedere quella situazione lì. Quindi colpa di Strootman che ha perso quella palla, colpa di... Per me De Santis qualcosa in più poteva fare. Anche per me. Però diciamo che ha ragione quando dice che non doveva succedere una roba del genere. Cioè l'errore più grave qui non è quello di De Santis, è quello della squadra, è l'errore di tutti, è aver perso quel pallone, essere stati molli della ripartenza, aver colpito in mezzo. Poi insomma, De Santis che conosco io, che poi quello che nel primo tempo ha salvato il risultato sul Dubia, non è che quindi voglio dire, ieri secondo me aveva fatto anche un'ottima partita, poteva secondo me fare qualcosa di più su quella situazione lì, ma insomma ripeto, è paradossale, sembra un film, però sì, sembra un film. È vero, sì, vero. Detto questo, non è che Morgan De Santis si è assunto alcun tipo di responsabilità, no, anche secondo me qualcosa di più poteva, su quella palla poteva fare. Sinceramente, poi sinceramente, detto questo, parla però anche insomma la storia di un portiere, e parla, non è che lui dopo il 3-1 col Bayern si abbia provato a giustificarsi, cioè, la battuta su Mazzarri ci sta, però insomma, De Santis non è uno che si nasconde da sempre, uno anzi che mi risulta che in futuro potrebbe fare anche il dirigente, e credo che anche la Roma potrebbe dargli una possibilità da questo punto di vista, proprio perché è comunque uno che sa parlare e del quale si riconosce un certo tipo di personalità, quindi se dice questa cosa qui io mi fido abbastanza. Allora, mentre la storia della multipla ha scatenato una ridda di messaggi, email, eccetera, sempre ferma, abbiamo anche l'autore di quello striscione sopracitato, tra i nostri ascoltatori, Davide da Verona. L'ho scritto io: juventini siete brutti come la multipla. Ah, era quello, sì. Che partita era? Era Hellas Verona Juventus, di quando non lo so, Davide ce lo dica o ci chiami, che magari è anche meglio. 800 24 00 24, ne parliamo a voce, se sarebbe un piacere. Intanto parliamo a voce con Marco Cherubini, viato di Mendes, che è ancora a Mosca con la Roma, no? Marco. No, siamo tornati adesso. Siete arrivati adesso, orora. Tornate adesso, un 25 gradi di escursione termica, quindi sembra che sta alle Maldive, anche se piove a Roma, però. Cioè, stamattina c'era il gelo, qui invece temperature. Qui piove a dirotto. Poco più che non. Sì. Hai volato. No, loro volano con un charter ormai privatissimo. Però eravamo ieri sera nello stesso hotel, proprio a due passi. Cazzati duri, Dall'aeroporto, insomma, la mazzata è stata forte. Che poi indubbiamente dal punto di vista, diciamo così, pratico, non è che poi cambiasse granché, perché poi l'impresa del City ha un po' fatto rimarginare l'amarezza. Però credo che questa squadra, ascoltavo Pierluigi sul discorso di De Santis, mi trovo perfettamente d'accordo. Però credo che questa squadra stia perdendo lentamente tutta una serie di certezze che invece erano la prerogativa dell'inizio di stagione. Iturbe è giocatore pronto e abile per una stagione straordinaria, Gervinho che era la garanzia, un portiere e una difesa affidabili. Sono tutte voci che invece stanno cambiando in corso d'opera e rendono questo percorso della Roma un po' più a singhiozzo e rischiano di togliere un po' di sicurezza a questa squadra nel momento in cui anche la questione degli infortuni è comunque una questione che non può essere, come dire, sì, dimenticata, perché 14 infortuni muscolari in 3 mesi sì, sono sì, il segno che qualcosa non ha funzionato in preparazione. Tanto c'è un ascoltatore alle autorine che scrive un messaggio interista. C'è una multipla? No, tranquilli, domenica arriva all'Inter a Roma a risollevare il morale dei Pacchiotti. Ma intanto io saluto mio amico Baciantino Cherubini, che grande conosco da quando eravamo ragazzini. Ma adesso quest'anno l'Inter devo dire che ha già fatto un'impresa straordinaria col Parma, bravi, col Parma, perché quella esibizione lì al Tardini, io dicevo prima Stephen King, l'orrore del calcio italiano, quella è una cosa tipo i film di Sergio Romero sugli zombie, eh. Cioè l'Inter di Mazzarri è riuscita a perdere contro gli zombie di Parma con tutti i problemi. Non è mica sempre Sassuolo, eh. No, adesso sul Sassuolo però voglio raccontare un gustoso aneddoto, dato che parlavamo di De Santis, no? Non so se voi sapete che un nostro collega bravissimo è stato portiere del Sassuolo fino all'allora Serie D, Marco Nosotti. Marco Nosotti, no? Sì, scusa, ce l'abbiamo in collegamento. Sì, grazie Leo, ti ricordi che giocavo nelle serie minori del Sassuolo, la catena di destra, la catena di sinistra, ecco, le fasce laterali, ecco. Allora Nosotti, ascolta Pardo, Nosotti faceva appunto il portiere e deteneva un record storico negativo, ovviamente, perché tra i pali dei neroverdi aveva incassato uno 0-6 casalingo, no? Tipo fa conto contro Crevalcore piuttosto che Corticella. E l'anno scorso Nosotti si inferocì quando ci fu Sassuolo-Inter all'andata, certo, e il portiere era Pomini, che ne prese 7-0, e tutti a dire Mazzarri ha trovato la chiave di volta, Inter spettacolo, no? Bla bla bla. Ha fregato il record a Nosotti. Ha fregato il record a Nosotti e ha fregato anche noi interisti per mesi, perché tutte le interviste che voi gli facevate, Tocca, Rubini, eccetera, Mazzarri diceva abbiamo il miglior attacco del campionato, certo, perché c'erano quei 7 gol là presi dal Nosotti di turno. Allora io vi dirò una cosa che vale anche per la Ferrari: il meglio deve ancora venire. The best has yet to come, no? Che è il titolo di questa autobiografia. Io vi dico che quando Mazzarri vince una Champions scrive la Treccani oppure il nuovo dizionario Zanichelli. Allora vediamo fra Nosotti e Pomini non c'è partita, eh. Ecco, bravo, sono d'accordo, esattamente. Abbiamo traffico, state lì tutti. Marco, no, c'è traffico, c'è Marco Cherubini che teniamo ancora un attimo. Sì. Lancialo tu, Leo. No, volevo ricordare per chi si trovasse in questo momento nella zona di Ronco Bilaccio, c'è un rallentamento fortissimo, perché l'ormai ex progettista della Ferrari, il greco Tombazis, che per anni ha spacciato scaldamagni per monoposto rosse da Formula 1, è fermo al volante di un furgone Ducato, ripeto, tra Ronco Bilaccio e Sasso Marconi. Fate molta molta attenzione, code, grazie. Convocati. È come se avessi preso un cazzotto da Tyson oggi, perché purtroppo non me l'aspettavo. Poi era, per me era perfetto, un gol mio, 1-0, che eri quasi qualificato, e poi purtroppo è successo quello che è successo. Qui c'è il destro, ci ripropongono due volte il destro, una volta il gancio sinistro di Mike Tyson. Ora Marco Cherubini. Eccoci qua. Raccogli la provocazione di Turrini sull'Inter? No, anche perché io credo che sia cambiato molto con Mancini. Mancini è uno che con la Roma, insomma, ha il feeling per far male, ed è una Roma preoccupata anche di questo. Ci fosse stato Mazzarri sarebbe stata una domenica sera per la Roma più tranquilla. Ma al di là delle battute degli allenatori e dei cambi delle altre squadre, ripeto, credo che questi 3 giorni siano molto importanti per stabilire anche il peso specifico del Garcia allenatore, per risollevare un po' il gruppo, Totti come al solito dà la fotografia perfetta di quello che è lo spirito di questa squadra. Ha preso un pugno da Tyson, sono quasi al tappeto, c'è bisogno di ripartenza, però servono energie, lucidità e anche un po' di, come diciamo noi a Roma, tigna, cioè sì, la garra argentina, sì, un po' di cuore, no? Una cosa, io capisco che la stagione scorsa della Roma sia stata una affascinante corsa libera, proprio lo spirito dei vent'anni c'era l'anno scorso, no? Cioè, Roma ha fatto un grandissimo campionato, si è illusa di poterlo vincere, non l'ha vinto, ma era comunque un successo, e quindi non aveva la terza competizione, voglio dire, cioè, la sofferenza vera forse l'ha provata soltanto a Napoli nella semifinale di Coppa Italia persa. Quest'anno la Roma è diventata grande, nel senso che l'asticella è cresciuta molto, l'ansia della prestazione è aumentata, la forza degli avversari è aumentata, insomma siamo a 90 minuti dalla fine del girone e la Roma, con tutti gli infortuni che ha avuto, anche con le figuracce che ha fatto, è assolutamente padrona del suo destino. Quando era in quarta fascia e si ragionava su se sarebbe mai riuscita ad arrivare in Europa League oppure no. Questo è fuori di dubbio. Questo è fuori di dubbio, però noi dobbiamo, secondo me, noi dobbiamo anche leggere quelli che sono, sì, diciamo così, degli aspetti. La partita di Bergamo, per esempio, che pure è stata preziosa perché ha portato tre punti fondamentali, è stata una brutta Roma. Cioè, questa è una squadra che in questo momento non riesce a esprimere il proprio potenziale. Ripeto, io credo che soprattutto là davanti, se uno ha 38 anni suonati, ancora sempre il migliore in campo, significa che intorno, soprattutto nel reparto offensivo, qualche cosa va migliorato. E credo che questa sia un po' anche la cifra della questione. Dopodiché, e chiudo, per quanto mi riguarda, io dico anche un discorso importante che riguarda la difesa va fatto, perché certamente sul fronte dei terzini, che pure sono importantissimi nel gioco di Garzia perché contribuiscono tantissimo alla manovra, andare sempre sul ripiego, andare sempre in emergenza, come alla fine pesa l'emergenza tanto, la paghi, l'emergenza finisce, certo, per pagarla. Grazie Marco, buon grazie lavoro, grazie a voi, un abbraccio, ciao, a tutti, ciao Marco Cherubini, ciao. Intanto questa sera gioca un'altra italiana, Sottilini un ascoltatore, certo ne parleremo diffusamente anche domani. Anzi, tocca... diamo una notizia meteo per rassicurare gli juventini: non sta nevicando in Svezia, perché considerati precedenti turchi c'era, speriamo, qualche perplessità. Non nevica, state non tranquilli. Nevica, non nevica, anche se è già stato detto da lassù, da Malmo, che il campo è in pessime condizioni. Pier? Sì, mi sembra il discorso che si faceva ieri a Mosca, cioè, nonostante la Roma gioca una buona partita, dai, la Juve stasera deve fare risultato, un po' d'ottimismo, nel senso che veramente un po' d'ottimismo. Io credo che la Roma fin qui abbia fatto un discreto girone, migliore di quello che poteva succedere, che poteva capitare. La Juve ha lanciato nelle ultime partite dei segnali molto incoraggianti. Poi chiaro, potremmo essere smentiti stasera, ma speriamo di no, e penso che non sarà così. Me lo auguro anch'io. C'è un altro argentino dopo quelli di ieri sera, Messi e Agüero, 3 gol a testa, mai nessuno in Europa come la Pulce, che ha 27 anni, ne ha già segnati 74, quindi il limite è il cielo. Stasera tocca un altro argentino, cioè Carlitos Tevez, che in Champions non segna in trasferta da 6 anni, da quando la Ferrari vince i mondiali. Sì, mi sembra, stavo per dire questo, che c'è un parallelo molto felice, ma siccome la Ferrari con Marchionne arriva bene, è pronta per spezzare il digiuno questa sera, se non nevica. Se non nevica penso che Tevez darà una soddisfazione ai tifosi della Juve. Aveva la maglia rossa perché era con aveva la maglia United, rossa con lo United, i capelli lunghi. Sono analogie, dai, da ogni punto di vista. Siamo pronti, Pardo, siamo pronti. Tu sai che la società, l'appartenenza, la proprietà è sempre quella, Marchionne, Fiat Chrysler, Rexor, Andrea Agnelli, Juve, Ferrari, e siamo, insomma, sempre a focus economia. Siamo a focus economia. Pardo ha sbagliato trasmissione, ancora non l'ha capito, dopo circa un'ora Orso Toro, Marizoni, Ascolta, intanto c'è, tra poco ci dobbiamo fermare perché solito una bad corner, abbiamo il GR eccetera, però mi informano, Franco Piantarina mi dice che c'è Marco Nosotti, che ha chiamato imbestialito. Ah, perché... temevo Marco Mattiacci. No, ha chiamato e vuole replicare perché ha detto che ci sono, nel racconto di Leo Turrini ci sono alcune imprecisioni. Vabbè, allora come posso? Io adesso dovrei, avrei un po' di cose da fare, però richiamatemi. Guarda, un secondo, dopo il GR ti richiamiamo, un secondo giusto per prenderci tutti insieme. Ma Nosotti ha preso 6 gol in casa come portiere. Questo forse non gli funzionava la catena di destra della squadra, o era latitante la catena di sinistra, ma perse 6-0 ed era tra i pali. Nosotti non può smentire questa cosa, non c'è nulla da fare. Ha chiamato lui da Marco Nosotti da Sky. No, quando hai detto Marco, ho detto sta che ha chiamato Mattiacci. Invece è Nosotti. No, dopo che ti ha detto sul giorno di oggi che Vettel è il mio regalo di addio per la Ferrari. È una bella frase. Questa è una bella frase. Dopo Belcor GR torniamo insieme 800 24 00 24. Matteo invita a rinchiudere Turrini in studio perché lo rivuole tutti i giorni. Vedremo cosa possiamo fare. A dopo. Tutti convocati. Come ho detto prima, oggi è Natale perché Leo Turrini è qui con me in studio e c'è Marco Nosotti. Ciao Marco. Ciao, buongiorno. E c'è ancora Pardo perché noi ci prendiamo le nostre responsabilità. Abbiamo, Leo Turrini ha raccontato questo episodio e tu hai detto no, c'è qualche imprecisione. No, ho seguito perché quando ho tempo ascolto gli amici e i maestri. E allora dico, è vero, no, io riconosco tutto, anzi l'imprecisione sta qui, che il vero record che mi ha portato via Pomini era questo. Io 7 gol li ho presi, ma non come lui in 90 minuti, io l'ho preso in un tempo solo, è questo che mi dava fastidio. Marco, se potevo fatti un po' fa con Pomini e con lo stesso consigli, perché ormai questo club del 7-0 si sta allargando verso al Sassuolo, stanno facendo gli scongiuri perché sono alla ricerca del settimo risultato utile consecutivo. Però io li ho presi, e parando anche Marco. Però hai preso i 7 gol quella volta perché non funzionava la catena di destra, come dici sempre su Sky a proposito del Milan, o si era interrotta la catena di sinistra? No, non lo so, guarda, so che loro erano, ti dico anche la squadra che era il Parma, avevano quella maglia bianca scudo crociata. Quindi vi allenava ancora Mazzarri a voi, scusa? Avete perso dal Parma, avevi Mazzarri in panchina, lo puoi confessare adesso, eh? No, ti ricordi? Il nostro allenatore allora era, credo, Frugeri o Martina, no, non lo so. Comunque un sassuolese, poveretto, persona per bene, preparata, che però questo neo di avermi fatto giocare in quella partita lì, dove peraltro, ripeto, ho parato, considerato in pratica che ogni 2 minuti mi piegavo per prendere un pallone in porta, perché il tempo della Beretti è di 42 minuti, poi la domenica andavi con la prima squadra. Però scusa, a questo punto, dato che abbiamo il piacere di averti ospite del grande Genta, ma tu cosa pensi di De Santis e del gol di ieri sera? Perché Pardo ha dato una spiegazione che sembrava la teoria della relatività nel film Interstellar, no? Io non ho capito niente. Che anche Pardo, anche Pardo era un portiere. No, Pardo racconta, racconta il calcio come Interstellar, è un grandissimo, ma la versione di Nosotti da portiere. Guarda, ci sono 2 tipi di palloni che un portiere non vorrebbe mai, con cui vorrebbe mai avere a che fare. Italia-Azerbaigian, palla sul primo palo, prendiamo l'autogol di Chiellini, no? Ed è la spizzata, quel verbo strano che io non capisco cosa voglia dire, però quella palla che tocca il primo palo e qui e ti sbologna, non sai più se coprire la prima parte della porta o la seconda parte, soprattutto se fai la zona mista. Poi ci sono quei palloni lì, non deve partire quel crossing perché tu non sai mai cosa fare, vado sul primo uomo che mi viene sul primo palo, vado su quell'altro o vado sulla traiettoria del pallone originario. Allora è quello, io ti dico, in quel caso lì puoi forse avanzare un metro e provare a chiudere un pochino di più, vai sulla traiettoria originale del pallone e poi se arriva quell'altro gli vai addosso e fai di tutto, ma ricorda, come diceva il grande Zoff, tutti i palloni si parano il giorno dopo. Pardo! Sì, no, Vecchio, volevo salutare il Noso prima di tutto. Sei perfetto, Bembo, sei perfetto. Quando poi la catena di destra del Milan, quando funzionava, faceva differenza. Ma qual è quello vero? Senti, ma puoi ricordare il nostro motto a proposito dei portieri, delle gambe aperte? Ah, sì, il motto è del mio amico William Vecchi. Quando arrivava un portiere nuovo al Milan, qualche volta mi diceva: vagli di dietro, verrà dietro la porta mentre facevano gli esercizi, sai, sui fondamentali, come tiene le gambe, no? E diceva, io non posso dirti, sono un po' aperte. Allora, e lui diceva, non so se si può dire in radio che non siamo in Francia. Si può dire, la radio di Confindustria, la radio del Sassuolo. Ecco, si può dire adesso. Comunque una gamba verti le bon soul perché Gerin dal Formentò. Voglio dire, Leo l'ha capito, con le gambe aperte si può fare bisogno. Importante nel campo di frumento. Nel campo di frumento, ecco. La vecchia Emilia contadina, abbiamo dato. No, ma devo dire che qui siamo passati in un attimo da Interstellar alle cose molto terrene, rurali, agresti, ai bisogni della natura. Questa è una trasmissione geniale perché riesce a mettere insieme l'alto e il basso, il sacro e il profano, soprattutto molto profano. È una contaminazione allora continua. Profano e basso, Benissimo, capito, non mi toccava fare questo. Grazie Marco. Ma voi mi avete chiesto. No, ciao vecchio. Ciao. Io non so più qual è quello vero e quello fake. Saluto tutti e due, Marco Nosotti, quello vero, e poi Pierluigi Pardo, che è Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao Leo. Qual è quello vero? Ma tu non sai una cosa, siccome prima abbiamo sentito Pardo che imitava Capello, che anche Nosotti è strepitoso a fare Capello. Io gliel'ho fatto fare in un teatro davanti a 400 persone e la gente era impazzita perché era più Capello di Capello. Sì, assolutamente. Come guardo allo specchio e non mi vedo più, qual è il mio nome, qual è la mia città, dov'è che abito, gelido come un pezzo di ghiaccio, mi guardo e non ricordo le cose di cui ho bisogno e non mi piace più. Pallone in aria e arriva il gol di Jorgensen, in mischia ha sfruttato un doppio rimpallo e ha trovato da due passi il modo di battere Buffon. Arriva Peluso, in aria c'è anche Pogba. Per Tevez, Quagliarella! E arriva il pareggio della Juventus all'ottavo minuto e mezzo del secondo tempo. E adesso non c'è più. Va Beckman! E arriva il gol storico, il primo gol in Champions League nella storia del Nordsjælland. Credo che come ha fatto la partita in casa quando era tanti anni, quanti anni ero? 10? No, 5. Che non segnava, magari domani credo che segnerà. El módulo para mí no ha cambiado. Yo pienso de que el míster me ha dado la libertad de jugar donde yo me siento più cómodo, no pienso que para mí en lo personal ha cambiado mucho, sino que como he dicho el míster me da la libertad para fai en el centro avanti o un poco più retrasado para jugar de più con la pala, ma yo c'è la libertad de jugar libero, ¿no? No, tanto per parlare di Juventus che insomma ed esorcizzare la paura, abbiamo mandato i ricordi delle ultime due cartoline dal nord che non sono esattamente coloratissime, 2-1-1 con Copenaghen e Nordsjælland. Se non c'è 2 senza 3 siamo messi male. Comunque, ma io penso che la Juventus, però, che abbiamo visto a Roma contro la squadra del presidente federale Lotito in Svezia, presidente federale, sì, perché lo sappiamo tutti che è il vero presidente federale. Secondo me vince la Juventus, la squadra che abbiamo visto a Roma ha fatto una grande impressione. Senti, ma perché adesso cominciamo a parlare con gli ascoltatori 800 24 00 24, così se li sbriga tutti le Turrini e io vado a bere una bibita, una Red Bull. Vedo che ti tratti bene, però perché, ricordi che Vettel è venuto da noi. A proposito di bibitari, perché Adrian Newey ha negato a Sebastianino Nostro la possibilità di fare il test? Ma allora, da un punto di vista formale, dato che stavamo evocando tipo Balta, Vecchio e tutte queste cose, hanno ragione i bibitari, nel senso che i contratti dei piloti hanno una scadenza che diciamo è il 31 di dicembre, perché poi ci sono le cose con gli sponsor, al di là delle corse, voglio dire. Non è stato simpatico il fatto che la Red Bull in un primo momento avesse detto a Seb sì sì vai pure, puoi salire sulla Ferrari a Abu Dhabi, anche perché francamente credo che Vettel non avrebbe tratto delle indicazioni particolarmente utili dalla guida di questo scaldabagno che ha partecipato a nome della Ferrari all'ultimo mondiale. Sarebbe stato più che altro un modo per approcciare il metodo di lavoro dei meccanici, queste robe qui. E loro, ecco, non è carino che prima gli abbiano dato il permesso, poi se lo siano rimangiato, ma tecnicamente lo potevano fare, sì, questo sì. Voglio dire. E con la Ferrari ha girato Marciello, anni 19. Sì, allora la Ferrari non lo sa quasi nessuno, sono alcuni anni che ha un programma dedicato ai giovani piloti che si chiama Driver Academy, no? Tra l'altro è gestito da un ingegnere molto in gamba che era l'uomo di pista di Schumi all'epoca dei trionfi, Luca Baldisserri, e sono alcuni anni che la Ferrari segue le carriere di ragazzi promettenti sperando che un domani possano arrivare ad essere, diciamo così, un fiore all'occhiello. La cosa, devo dirti, dolorosa, così gli rivolgiamo anche un pensiero, è che il miglior prodotto di questa scuola, devo dire, era, perché certamente non guiderà mai più, Jules Bianchi, che è uscito proprio da questa accademia, che la Ferrari ha accompagnato in Formula 1, trovandogli una sistemazione, un ingaggio. E comunque il programma va avanti, di questo Marciello tutti dicono delle cose carine, simpatiche, molto positive. 19 anni è. Però voglio dire, bisogna poi aspettare, anche se è vero che adesso nell'automobilismo, siccome al potere ci sono tutti questi dinosauri, no? Da Eccleston che ha 138 anni a Briatore che si è sposato con la Gregoraci, ma secondo me ne ha 90, perché basta vederlo in fotografia. E prima l'ascoltatore domandava se lo vorreste da Ferrari, Briatore. No. No. Ma non perché io non abbia stima per le sue capacità professionali, uno che in Formula 1 ha vinto anche non poco, però credo che in Ferrari ci sia bisogno di energie nuove e non di personaggi che appartengano al giurassico. In questo senso arriva bene una soluzione positiva, perché ha la competenza, l'esperienza, la voglia di fare, e non ha un grande avvenire dietro le spalle in termini di risultati, perché comincia ora a fare il team manager pur avendo, ripeto, la competenza indispensabile. No, io Briatore no. So che era un'idea di Alonso negli anni in cui era Maranello, ho visto che si mandano anche adesso i Twitter loro assieme, no? C'è stato questo tweet un po' provocatorio, sì. No? Con da Abu Dhabi, Alonso e Briatore, l'altro manager di Alonso, no? Quindi sì, con... lo è tuttora, non è ufficialmente, diciamo così, sì. Però ma ci sta, è sempre stato molto vicino a Fernando. Questa foto con Briatore, che naturalmente non fuma. E cosa si vedeva? Dillo tu. E si vede Briatore con sta sigaretta. E perché secondo te? Appunto. Tu hai capito. Io ho capito, ma credo di aver capito in molti, no? Ma no, ma insomma è evidente che il compianto Mattiacci, che è tuttora fermo, lo dico sempre anticipando il traffico. Il traffico è dopo. È fermo sulla Pero Cormano, però Mattiacci non era particolarmente gradito ad Alonso, ecco, mettiamola così, ed è stato sostituito da Arrivabene, che arriva dalla Philip Morris, quindi il riferimento è era puramente casuale, no? Ma sì, fanno queste canagliate, perché poi nel mondo della Formula 1 sono poi tutti, sai, appartengono alla medesima combriccola, no? Perché sono, intanto ai vertici sono sempre quelli, no? Sono eterni, immortali, guardiani delle galassie, questi film qui, no? Tu vedi arrivare Eccleston che ti dice: non mi interessa se un ventenne non guarda più i Gran Premi, perché da noi ci sono dei brand che vendono oggetti che costano tantissimo e quindi molto meglio il settantenne bollito che con si può comprare con il grano. Cioè, è una cosa, sembra una compagnia di folli in certe cose, devo dire, non sono l'impressione che ne abbia il pubblico. Fanno queste robe strampalatissime, non si può più provare, come se nel calcio dicessero allenamenti vietati, dal lunedì al giovedì, solo le partite. Queste robe qua, e poi sono contenti, sono compiaciuti. non lo so, fanno venire in mente sì, certi film un po' così cucun, sai, queste cose, queste pellicole, si immagino questi orizzonti alternativi, ma sì. insomma allora poi ti leggo una mail che mi è arrivata prima della signora Luisa su Alonso. C'è Alessandro che scrive che se stai qui sempre promette di ascoltare anche tutte le pubblicità del traffico GR. Io ho detto ripetutamente in altre mie apparizioni, cioè io mi limito a riportare che io per la felicità di lavorare con Carlo Genta mi sento come dice Benigni, mi metto in nudo per la felicità, è una cosa. Tanto poi io credevo che fossero degli studi galattici, invece lo dico per chi sta guidando sulla tangenziale, veramente, cioè siamo una specie di box sulla Pero Cormano, quindi quando vi danno le informazioni del traffico, quelli di Radio 24 lo fanno in presa diretta, sono veramente lì, capite? Non è che vi dicano qua capocchia, no, vediamo le code provocate dal fatto che Raikkonen sta rallentando molto. Matteo Novara, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Volevo tornare sulla Champions, sì. Se posso, ho capito, sì, che oggi il clima è quello del divertimento, l'obiettivo è quello, però sempre. Sì, infatti, definire Maicon imprescindibile, credo che abbia il record mondiale di gol presi in due botte sole, perché ne ha presi 7 dai tedeschi a luglio, 7 a settembre, e prima voi avete detto che è imprescindibile. Non capisco. De Santis, Maicon, De Santis o chi? Maicon. No, scusa, guarda, io faccio sempre così per parlare bene dei colleghi, l'ha detto Pardo che è imprescindibile Maicon, eh? Non mi ricordo. Io ho detto che trovavo molto strana la definizione, quindi la penso più come te che come Pardo. E vuol dire che il calcio italiano è messo abbastanza male, ma questo lo dice abbastanza spesso. Sì, messo male, speriamo non malissimo, vediamo tra stasera e il prossimo giro, insomma. Io non sono così, non mi sento di accodarmi ai disfattisti da questo punto di vista. No, anche perché poi c'è questa partitissima Inter-Dnipro domani sera, che penso che l'intera nazione si mobiliterà davanti al televisore, perché è un evento epocale, Inter-Dnipro, Non ci sarà neanche Mancini, che è la grande attrazione del circo in questo momento, perché è squalificato. Ma non c'è Mazzarri però, che era la grande attrazione. Carlo Modena, sarà un tuo amico? Sì. Carlo da Modena, buongiorno. Ci sono? Sì. Con il bicchiere di Lambrusco in mano, alla salute del buon provinciano Leo Turrini, non potevo mancare al conclave di Fuoriclassi Comici del giornalismo sportivo. Ti ringrazio molto, perché io, come dico sempre a Carlo Genta, in realtà sono un clown, voglio dire, cerco di togliere un po' di tensione, di pressione intorno a quello che è il modo di vivere lo sport e anche di raccontarlo spesso nel nostro paese, tutto lì, insomma, dovremmo sorridere un po' di più. Già la vita di tutti i giorni è molto amara per tanti di noi in questo paese, se poi esasperiamo le cose anche a livello ludico, perché il pallone, la Formula 1, eccetera, insomma, lo sport sì, è un business, tutto bene, però è un passatempo, insomma, dai, per chi guarda è un passatempo, deve essere un divertimento, è chiaro. Dica Carlo. No, appartengo alla categoria, anche se molto di rado, sono arrivato qua seguendo l'amico idolo Reutemann, una cosa strana. Grande Lole. Grande Lole. Sì. Sai cosa voleva dire Lole? No, ce lo spieghi tu, perché hai la padronanza della lingua. Che vuol dire i maiali. Da bambino nel campo di famiglia lo mandavano a curare i maiali che non scappassero. Però Lole, scusa Carlo, dobbiamo dirlo per Genta, che è molto giovane, non lo molto sa, Carlos Reutemann è stato un grande pilota, l'argentino che più si è avvicinato alla leggenda di Fangio, e guidò la Ferrari nel 1977, nel 1978 sfiorò il titolo mondiale ma non riuscì a vincerlo, poi ha fatto politica proprio in Argentina, è stato anche governatore. Devo dire, ha lasciato come governatore, non ti so dire, come pilota ha lasciato un magnifico ricordo. Io me lo ricordo con la Copersucar. Non ha mai guidato la Copersucar. Sì, era Fittipaldi. Vedi che ho sbagliato. Reutemann la Copersucar, no, perché la Copersucar era brasiliana, è come San Carlo tra brasiliani e argentini, eh? Non si poteva fare, Carlo, grazie. Bene, questa era la presentazione, sinceramente, sì, per rallegrare un attimino. Prima una provocazione, cari amici. Quella del Boca, di cui sono nipote diretto di uno dei fondatori del club, di cui il collega Andrea Barbi, di qui alla Telemodena, mi ha dedicato varie puntate sull'argomento. Sì. Boca è la mia squadra del cuore, naturalmente, quindi non posso che... Boca sei un argentinista, non tipo, esattamente. Il Boca, ma c'è un discorso di contestazione in confronto al buon Silvio Berlusconi, che vende il Milan come la squadra più titolata al mondo. Sì, lo so. E il Boca Juniors, in materia di ricerca, perché non sono nemmeno sicuro io, nel 1925 avrebbe fatto una tournée mondiale, quando nessuna squadra al mondo era uscita dai propri confini, vincendo tutte le partite o qualcosa simile, e la FIFA lo avrebbe dichiarato primo campione mondiale d'onore. E quindi questa la giriamo direttamente a Galliani, che verrà diffidato dall'esporre tutti i trofei con la scritta il club più titolato al mondo, perché non è così. Leo Turini, ci fermiamo un attimo, abbiamo la borsa, non il traffico, so che... No, sul traffico solo vi davo qualche aggiornamento. No, il traffico arriva tra una decina di minuti, la borsa, poi torniamo insieme. 800 24 00 24, il numero verde. Tu sei il leader della mia intera famiglia, d'altronde io lo dico sempre che pur di partecipare a tutti i convocati camminerei sui carboni ardenti scalzo come il compianto Mino D'Amato. Convocati. Allora, Leo Turrini qui con me, purtroppo. Sì, mi sto cominciando a spogliare, perché lo dico, io la felicità che provo a essere con quest'uomo, con Carlo Genta, ma ragazzi, tutto ignudo mi vorrei mettere. Senti, va, c'è chi... Non nevica Malmo, dillo per gli Amontini, eh. Non nevica. Abbiamo guardato Malmo il meteo durante la pausa, no, non nevica. Non, a quanto pare no, però. Anzi, sta salendo tempo, anche il termometro, si giocherà in un clima quasi primaverile, e quindi è fatta, non c'è problema. 14:30, si parte tra poco, no, inizia la sfida, no, ma è solo un gioco. La poesia no. No, oggi no, mi rovina la giornata. Tripudio di cori, bandiere. Questo è l'ascoltatore. Che... Sodono soldati di tromba gli squilli. Eccezionale. Vede lontane sotto passaggio. Ho detto, per me oggi è come Natale. Volete rovinarmi il Natale? Siete come minimo cattivi. C'è chi ha letto il libro su Bartoli. Bartoli. No, perché c'è stato anche un Bartoli ciclista, non male. Non era da libro, ecco. C'è chi ha letto il libro su Senna. Sì. C'è chi li ha letti tutti, chi vuole rileggerli, però c'è anche chi potrà leggere Mio padre Enzo? Sì, beh, una riedizione, Piero Ferrari nel 2007 raccontò il rapporto con suo padre Drake Di Maranello in un libro intervista insieme a me, e adesso è stato ripubblicato perché sono gli 85 anni della scuderia Ferrari. E all'epoca non era ancora in funzione la ghigliottina, Maranello per Montezemolo, Mattiacci, Alonso, eccetera, insomma anche i tecnici con Enzo Ferrari duravano un po' di più. E allora adesso è stato ripubblicato con un DVD, ma devo dire è una cosa proprio per gli appassionati, i patiti, per la storia più bella della Ferrari, perché la Ferrari senza retorica è un simbolo italiano, insomma. E lui, il Drake, è stato un grande del Novecento. Sì, insomma, siete cattivi anche voi, perché girate il coltello nella piaga in uno dei momenti più bui. Vuoi far piangere la gente, no? Ma no, assolutamente. Se vuoi far piangere la gente, dillo. No, tutti sanno che io sono ferrarista. Proprio perché sono ferrarista è giusto dire a chi ha la bontà di ascoltarci, io parlo di Formula 1 ovviamente, di Gran Premi, non certo dell'azienda che fortunatamente va benissimo, che questo è un momento molto complesso, molto delicato, non si vince, ci sono continui rivolgimenti ai vertici del reparto corse, però per dare una speranza penso che questo Maurizio Arriva Bene, inglesizzato Arrive Well, abbia, l'abbiamo già detto, le qualità per diventare un grande leader di una rossa di nuovo vincente, ma ci vorrà pazienza. In un prossimo futuro. Quella che devono avere sulla Piero Cormano, la pazienza, ve lo dico, fate molta attenzione, perché questa volta c'è Fernando Alonso al volante di una Honda. È venuto a svuotare l'armadietto. È venuto a svuotare l'armadietto, ma il turbo Honda, come sappiamo dai test di Abu Dhabi, non funziona, emette insomma dei borborigmi invece che dei rumori da competizione, e quindi è lui che sta rallentando il traffico in direzione Maranello. Se vi trovate all'altezza della area di servizio lì, come si chiama, di Parma, sì, c'è una coda, lo dico, è traffico, lui. È lui, è Alonso su una Honda. Poi ti leggo la mail della signora Luisa su Alonso, sì, perché ci tengo. Intanto sì. Alessandro Dalla Spezia, buongiorno. Sì, ciao, Ciao, buongiorno. Ciao. Carlo, ahimè, tifoso milanista. Sì. E in questa serata di Champion, chissà quando noi risentiremo la famosa musichetta. Tempi duri, durissimi da digerire per come eravamo poi abituati. Io però volevo dire un'altra cosa, cioè, secondo me, da con il mio modesto parere, la questione principale è che, non so, il gioco del Milan è cambiato completamente. Le prime due giornate, azioni, pressing alto, si andava a rubare la palla nel centrocampo altrui, eccetera, eccetera. Poi c'è stata quella partita con la Juve che abbiamo giocato in maniera così di attesa, e siamo ancora lì ad attendere, scusa un po' l'episodio della partita di Verona, e siamo ancora lì sempre ad attendere, ad aspettare, poi si riparte e i piedi sono quelli che sono. Beh, la partita con la Juventus, il Milan ha avuto molto timore reverenziale, ma d'altra parte non può, secondo me il Milan di oggi non può parametrarsi alla Juventus, cioè non deve essere quello il termine di paragone del Milan di oggi, tristemente, se vogliamo, per i tifosi del Milan, però questa è la verità. D'altra parte io non dimentico che dopo la prima giornata con la Lazio si diceva: ah, finalmente un Milan operaio, un Milan che come ha detto l'altro giorno Pizzarro, ha tolto lo smoking, ha messo, non so se la tuta blu o comunque un vestito, i blue jeans quantomeno, tutto intorno a Inzaghi, un Milan che ha perso il gioco, è vero, ma forse anche la spocchia che Seedorf aveva. Può essere, possiamo leggerla così come io leggo questa mail della signora Luisa. In trasmissione, dagli ospiti e dai conduttori, sento ripetere sempre lo stesso ritornello. Alonso è il miglior pilota, ma non guida la migliore macchina. Vi siete mai chiesti il perché? Penso che per essere il migliore bisogna esserlo ovunque, non solo col volante in mano. Senna, ovviamente, di tutt'altro talento. Chi aveva le macchine migliori se lo litigava. Alonso no. Alonso, che ha avuto le macchine migliori, non lo ha voluto. E anche ora, via dalla Ferrari, non è andato in Mercedes, ma guiderà una macchina che non sarà la migliore. Questo vorrà pure dire qualcosa? Domanda la signora Luisa da Cesena. Secondo me questa lettera l'ha scritta Mattiacci, che adesso ha molto tempo libero. Sì. No, saluto la signora Luisa. Beh, c'è un fondamento di verità, Io non ho mai detto che Alonso è il migliore di tutti, sei tu che lo dici, gente. Io dico che è uno dei 3-4 top driver di questa generazione. Gli altri sono Hamilton, Vettel, e mi permetto di insistere, Raikkonen. Eccolo. Capisco che possa essere un'opinione non condivisibile a proposito del santo bevitore. No, ma volevo dire questo: è verissimo che nella Formula 1 postmoderna ormai la macchina conta nemmeno più il 90%. Come si diceva all'epoca di Senna e Prost, conta il 98%. Io sono convinto che Hamilton o Alonso o Raikkonen avrebbero vinto 4 mondiali con la Red Bull, come li ha vinti Vettel. Sì, però Kimi, il santo bevitore, ha preso 100 punti di distacco da Alonso quest'anno. Sì, ma se vuoi dopo approfondiamo, io non voglio annoiare chi è in coda in questo momento, perché ripeto, c'è Raikkonen all'altezza del casello di Brescia, quindi fate molta attenzione perché sta facendo da tappo. No, volevo completare però il ragionamento per rispondere a Luisa. Io penso che Alonso è uno dei migliori piloti, non è il migliore in assoluto. Alonso ha un problema caratteriale da sempre. È uno che nelle circostanze difficili non è che guidi meno bene, ma si carica di negatività nei confronti di chi lavora con lui. Questo è il motivo per il quale Jean Todt, il pinguino, che è il presidente della Federazione Internazionale, che girò il film Batman 2 a suo tempo proprio facendo la parte del pinguino, ecco, Todt, quando si trattò di scegliere l'erede di Schumi, disse con il compianto Montezemolo, che sapete è passato dalle macchine ai treni, agli aerei, compianto come presidente Ferrari, dico, è passato dalle auto ai treni, agli aerei e prossimamente alla bicicletta e il monopattino fra un paio di stagioni. Dicevo che Todt disse a Montezemolo che per la successione di Schumi era meglio puntare su Raikkonen, non perché Alonso non fosse altrettanto valido come driver, ma per una ragione comportamentale. Si è visto anche in questi anni in Ferrari, Fernando ha reso più di quello che la macchina valeva, ma quante volte in circostanze in cui era in lotta per il titolo la vettura non era performante e lui pubblicamente diceva: ah, non mi danno la macchina buona, ah, mi hanno portato uno sviluppo sull'ala che invece di farmi guadagnare decimi me li fa perdere. Perché Alonso è così, io lo dico anche con affetto, voglio dire, è un, se volete, un latino, uno come noi, un temperamentale, no? Però non sa fare squadra, È troppo facile, saper far squadra solo quando si vince. E guardate che nella sua perfidia e ferocia, Marchionne, nella lettera ai dipendenti Ferrari di ieri l'altro, dove è riuscito a non nominare Alonso in 6 pagine, però ci sono 3 righe dove dice: abbiamo scelto Vettel e abbiamo tenuto Raikkonen perché questi sono 2 piloti che hanno lo spirito di gruppo e sanno cosa significa fare squadra. Il riferimento implicito era chiarissimo, chiaro. Poi si può condividere o meno. Poi tu vuoi sapere perché quest'anno il santo bevitore non ha brillato? Non ha brillato? Secondo te non ha brillato? Ci sono innanzitutto delle spiegazioni di natura tecnica troppo laboriose da esporre. Vi dirò solo che in Formula 1 le macchine si fanno con un anno di anticipo, per questo il 2015 delle rosse sarà molto molto molto difficile, e quindi giustamente un anno fa la nuova Ferrari per il 2014 era già pronta e giustamente era stata studiata sullo stile di guida di Fernando, che è opposto rispetto a quello di Raikkonen. A fine stagione, quando la macchina è stata un po' adattata a quelle che sono le caratteristiche del biondino, c'era sempre Alonso davanti, questo è innegabile, ma arrivavano come in Brasile 6° e 7° un secondo di differenza, 9° e 10° domenica scorsa a Abu Dhabi 1° di differenza. Quindi voglio dire, se non è zuppa è pan bagnato. Sono delle spiegazioni tecniche, ma insomma dici. Questo lo dico a tutela del santo bevitore, poi che potrebbe aver anche pensato dopo le prime 2 corse, vabbè, questa roba non va, la diamo comunque. Raikkonen quest'anno, per quello che è il suo talento, è andato troppo piano. Questo credo che persino i sostenitori del Vodka Fan Club di Brisighella ne diano atto, non c'è mica problema, le evidenze non vanno taciute. Dovina cosa c'è adesso? Il traffico. Bravo. Allora attenzione, lo dico in questo caso al sud, se siete sul grande raccordo anulare e vedete un gruppo di ciclisti che rallentano, è la nuova squadra ciclistica della presidente avvocato Luca Cordero di Montezemolo, la LCDM, che debutterà al Tour de France nel 2015 con una wild card. E sapete che anche Alonso voleva andare in bici, forse si ritrovano tutti assieme lontani da Marchionne, tutti in bicicletta. Traffico. Senza Mattiacci però. No, Mattiacci è in questo momento e in altre faccende affaccendato. Ci scrive queste lettere che hai letto prima, quindi. Sappiamo le difficoltà che finora abbiamo trovato in campionato, e questo vuol dire che non basta il 100%, quindi è ora di lasciare lo smoking a casa e di cominciare a pedalare. L'atmosfera è bella, ma i bomboni non mancano mai. Tutti convocati. Tempi finali del test di Abu Dhabi, Marcello su Ferrari secondo dietro a Verletti. Vorrei sapere però, tra lui c'era Verstappen per caso oggi in pista con, non lo so, adesso con lo la Toro Rosso? Adesso ce lo facciamo, perché via. Verstappen sarà, diciamo, la new entry più attesa l'anno prossimo, perché è minorenne. E in Formula 1 quelli che comandano sono tutti i bisnonni, Eccleston e compagnia bella, però hanno la passione, sai come i nonni e i bisnonni, no? Si inteneriscono i bambini. E questo Verstappen debutta l'anno prossimo con la Toro Rosso, e secondo i ragionamenti che fanno in Red Bull, che è proprietaria della ex Minardi, appunto la Toro Rosso, dovrebbe essere lui la nuova sensazione della Formula 1, the big thing del futuro. Terzo tempo Verstappen, dietro Marciello, due secondi dal primo. No, capito. Vabbè, comunque, questi sono test, voglio dire, che perché lasciano il tempo che trovano. Giochi per bambini, no? Ma sì, il campionato è finito, adesso fanno provare la macchina ai ragazzini, giustamente. Bisogna proiettarsi sul futuro, anche perché poi il tempo passa velocissimo, è già a marzo 2015, poi si corre, a fine gennaio ci sono i test, quindi sarà un inverno molto impegnativo, soprattutto per chi deve rincorrere la Mercedes. Sì. E credo che non la beccheranno. Però noi abbiamo questa soluzione che a Maranello ha funzionato in passato, che è il menù tagliatelle e birra. Ferrari Sciumi, Ferrari Vettel. quindi no, a tavola non funziona tanto, ma no, nell'automobilismo ha funzionato molto molto bene Tagliatelle birra. Sì, eh, poi però c'era anche dei, un contorno di cuochi che erano all'altezza. Beh, c'era il Dream Team, lo sapete, esatto, quello che dicevamo, dai, prima, cioè Marchionne, io vorrei Barisoni lo evocasse a Focus Economia tra poco, sì, deve mantenere le promesse che ha fatto a Riva Bene, cioè investire sulla Formula 1. Sono promesse pubbliche, dunque, dunque certo sarà, non sarà difficile, difficile, sì, però magari uno, no, se parli con Landini, che delle mie parti ti dice che di promesse pubbliche Marchionne ne ha fatte spesso, poi non è che mai... Vabbè, ma questo è un argomento per Barisoni, il nostro idolo. Fiorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie d'attesa, dica. Senta, io volevo andare su un argomento un po' più frivolo, visto che c'è quel simpaticone del signor Turrini. Sì. Volevo che si parlasse un po' delle ombrelline, quelle... Le ombrelline. Quei telai pazzeschi, insomma, quelle sventole, volevo dire. Ma vedo che lei è molto attento agli aspetti tecnici delle corse. Ma guardi, ma sa, quest'anno le corse delle motociclette le abbiamo guardate tutto per le ombrelline. Beh, però senta, non Valentino dica così, che ha fatto una grande stagione, cioè, che gente, se gli tocca Valentino, non mi tocchi Valentino, cioè, Rossi, diventa come Brunetta se gli toccano, capito, il gruppo dei deputati. No, ma io le volevo chiedere, poi si scambiano i bigliettini col numero con i piloti, o i piloti non le vogliono, magari c'è qualche scarto anche per noi. Ah, ma lei proprio ha degli obiettivi pratici molto immediati. Guardi, le devo dire una cosa, adesso nelle moto sinceramente io non è che sia tanto ferrato, perché mi fido di Genta. No, diciamo che le moto chiama, e i piloti... No, quelle che lei chiama ombrelline ci sono anche in Formula 1. Poco. Però una volta i piloti di Formula 1 erano veramente, insomma, dei sacripanti, dei satanassi, cioè Piquet padre, no? O il nostro caro amico che non c'è più, Clay Regazzoni, era noto, no? Che aveva un successo. No? Sì, poi Ant Deschamps, erano, insomma, se vogliamo parlare con franchezza, delle belve senza guinzaglio in mezzo alle ombrelline. Oggi i piloti sono diventati, da questo punto di vista, un pochino più rigorosi, non voglio dire monogami, perché questo è solo Genta, insomma, che ha questa, ti sei sposato da poco, so, a Las Vegas, quindi facciamo tanti auguri a Carlo Genta, che non ve l'ha detto, però dicevo, a parte questo, oggi i piloti hanno invece un atteggiamento nei confronti delle tentazioni della vita un po' più distaccato, ecco, c'è gli Alonso, i Raikkonen, i Vettel, hanno sempre di solito delle compagne molto affascinanti, ma non sembrano più dei cacciatori, monaci, no? Buddisti, no, monaci buddisti no, però non sono più nemmeno dei cacciatori scatenati, infatti sono diventati noiosi, posso dire. Beh, è vero, anche per questo forse sono diventati terribilmente noiosi, terribilmente. Sembrano dei robottini, sono dei polli allevati in batteria, è per questo che a me piace Raikkonen. Ma anche a me, ma perché lui è differente, come ma anche a me piace da morire Kimi Raikkonen. Voi sapete la storia del debutto di Raikkonen nella NASCAR? Allora, la NASCAR è una, diciamo così, una sigla per le corse americane, sì, le vetture. Un minuto. C'è il traffico? Abbiamo un minuto, poi dobbiamo... C'è Raikkonen sul traffico? Abbiamo un minuto e poi dobbiamo chiudere. Senti, ma facciamo così, raccontiamo la prossima volta. Sì, va bene, la prossima. Ma torni, vero? Torno. Non mi fai aspettare il prossimo Natale? No, torno, promesso, ogni promessa è debita. Avete sentito anche voi, come Marchionne, promessa pubblica, e sì, vediamo se verrà mantenuta da Leo Turrini. Tornerò sulle note degli Homo Sapiens o qualcosa del genere, tornerai, non mi ricordo più. Se tornassi, perché no? Julio Iglesias, 1979, ci sono arrivato. Ciao a tutti. Franco Piantini, autore di questo programma, Fabio Cantadori, regia, Daniele Buonamici in redazione. Grazie ovviamente a Leo Turrini. Mi alzo in piedi, lo saluto, lo bacio, lo abbraccio e vi saluto. Saluto anche voi. Ci sentiamo domani dopo le due. Ma che buongiorno, allegri. Bene, hai una bella battuta. Mio Dio, come lo amo il baseball. Avrei giocato anche gratis. Era bellissimo. I suoni, gli odori. Hai mai tenuto una palla o un guanto contro la faccia? Sì. Mi piaceva un sacco viaggiare in treno da una città all'altra. Gli alberghi. Le sputacchiere nei corridoi e dentro le stanze i letti d'ottone. E poi la folla. Che scattava in piedi quando battevi un fuoricampo. Cristo. Avrei giocato anche gratis. Convocati.